24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Il presidente della BCE: la crisi europea è grave, per Trichet occorre agire subito. Viviane Reding a Radio 24 propone un diritto comune europeo per la vendita al dettaglio. Telefonia: un ragazzo italiano vince il concorso per la nuova suoneria della Nokia. Benvenuti da Paolo Panceri a una nuova puntata di 24 ore in Europa. La Commissione europea presenta oggi le sue proposte per la ricapitalizzazione delle banche del vecchio continente. Lo ha annunciato il presidente José Barroso. Ieri la BCE aveva rinnovato l'allarme al mondo del credito. 8 miliardi sono quelli che Atene aspetta già da qualche settimana e che ora, dopo il sì dei tecnici della Commissione europea, BCE e Fondo monetario internazionale, sono pronti per essere stanziati. I risultati delle ispezioni però non sono incoraggianti. Si sapeva che il paese avrebbe mancato gli obiettivi per l'anno in corso, mentre non era altrettanto palese che la recessione sarebbe stata molto più grave di quanto previsto, il che si tradurrà in altri tagli. La crisi si aggrava e il numero uno della BCE ripete che il tempo è quasi scaduto. Jean-Claude Trichet, ormai alla fine del suo mandato, richiama gli stati europei sulla gravità del momento. La crisi è sistemica, dice il presidente dell'Eurotower. Nelle ultime tre settimane è peggiorata. Le istituzioni devono agire ora. Servono risposte efficaci sulla crisi dei debiti e la ricapitalizzazione delle banche. E sì che la neo direttrice dell'FMI, Christine Lagarde, è dalla fine di agosto che va ripetendo che per evitare il contagio servono alle banche europee tra i 3 e i 400 miliardi. Sul come però restano i dubbi. Trichet spinge per il rafforzamento del fondo salva stati, lasciando però fuori la BCE. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Seduta interlocutoria per le borse europee nonostante il rialzo dei bancari. Parigi perde lo 0,25%, Londra lo 0,06%, mentre Francoforte guadagna lo 0,3%. A Milano il FTSE MIB cede lo 0,39% e lo share lo 0,55%. Sentiamo invece com'è andata a Piazza Affari. Seduta interlocutoria per le borse europee che chiudono in ordine sparso nonostante il rialzo dei titoli del credito spinti dall'ipotesi del piano europeo salvabanche sull'asse franco-tedesco. A Milano ieri il FTSE MIB ha così ceduto lo 0,39% e lo share lo 0,55%. Parigi ha lasciato sul terreno lo 0,2%, mentre Francoforte è avanzata dello 0,3%. Londra praticamente pari. A Piazza Affari esplode Unicredit, più 6,7%, che da settimana scorsa ha guadagnato il 24% e ha così abbattuto di slancio quota 1 euro. Avanzano anche UbiBanca, più 3,8%, e il Banco Popolare, più 3,2%. Telecom, meno 2,6%, paga invece il downgrade di Fitch di Goldman Sachs, che consiglia di vendere il titolo della società guidata da Franco Bernabé. Fonsai, infine, perde il 2,9%. Sulla scia del profit warning sul 2011. Ceo Condina da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore. Resta in piedi la polemica sull'asse franco-tedesco delineato dal patto anticrisi su banche e trattati europei e firmato nel fine settimana dal presidente francese Nicolas Sarkozy e dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. Il ministro degli esteri Franco Frattini è tornato a dirsi contrario ed è arrivata anche la replica europea. La riunione tra Merkel e Sarkozy, è stato chiarito, rientra nella preparazione dei lavori del vertice europeo a cui partecipano tutti gli stati ed è accolto come un contributo. L'Unione Europea è profondamente delusa dalla sentenza di condanna di Yulia Tymoshenko, lo ha dichiarato l'alto rappresentante della politica estera, Catherine Ashton, sottolineando che la sentenza è stata emessa dopo un processo che non ha rispettato gli standard internazionali di trasparenza, giustizia e indipendenza. È il ribaltamento dei valori democratici per i quali mia madre ha lottato. Questa sentenza segna il ritorno del regime autoritario di stampo sovietico contro il quale milioni di ucraini hanno combattuto. Eugenia Kar, figlia 31enne dell'ex premier ucraino, è convinta che il paese non potesse festeggiare peggio i 20 anni dall'indipendenza da Mosca e parla di vendetta del presidente filorusso contro un simbolo della rivoluzione arancione e della linea filo occidentale. Ancora una volta sono gli accordi sul gas che avvelenano da 15 anni i rapporti tra Ucraina e Russia al centro del processo che rischia di chiudere la carriera politica di Yulia Tymoshenko. Nell'ultimo decennio l'economista attiva da 30 anni in politica ha scalato anche i colossi nazionali dell'energia, ha saputo tener testa più volte agli intrighi interni, ha superato anche scontri aspri con le autorità tutelari di Mosca. Tymoshenko, secondo il giudice Kirev, avrebbe abusato del suo potere firmando un accordo per la fornitura di gas russo all'Ucraina senza aver ottenuto il preventivo consenso del governo. Questa sentenza, ha detto entrando in aula, non la pronuncia il giudice, ma il presidente Yanukovych. Gigi Donnelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Solo il 4% dei consumatori italiani effettua acquisti online in altri paesi dell'Unione, mentre le barriere giuridiche scoraggiano la vendita di nostri prodotti all'estero. In un periodo di crisi, spiega Radio 24 il commissario alla giustizia Vivian Reding, l'Europa deve fare di tutto per eliminare i costi superflui e favorire le esportazioni. Per questo propone un diritto comune per la vendita al dettaglio. I cittadini italiani sono un ottimo esempio della questione che vogliamo affrontare. Infatti i dati indicano che hanno parecchi problemi ad acquistare online e che solo il 4% degli italiani fa acquisti di beni e servizi attraverso le frontiere interne. Ovviamente, per un paese come l'Italia, per i cittadini italiani, poter disporre di una legge unica per gli acquisti di prodotti manufatturieri e digitali, una legge commerciale comune, sarebbe la certificazione per acquisti sicuri, pienamente comprensibili nei termini contrattuali e dunque trasparenti. Penso che sarebbe proprio un grande vantaggio per i consumatori italiani. For the Italian consumers. E per i produttori, per le imprese? Sarebbe anche meglio, proprio per la natura della piccola impresa italiana che è molto efficiente e creativa, ma che a causa dei costi si rivolge con molta prudenza a un mercato che, non dobbiamo dimenticare, è composto da 500 milioni di consumatori. Voglio insistere sul vantaggio che questa legge potrebbe rappresentare per le start-up e per le imprese giovani. Quando avvii un'impresa, ti devi rivolgere al mercato e questa legge metterebbe a disposizione un mercato da 500 milioni di consumatori clienti. La lotta contro i pirati somali. Ieri un blitz sulla Montecristo ha liberato l'equipaggio. È durato poco più di un giorno il sequestro lampo della Montecristo al largo del Corno d'Africa. Stanno tutti bene i 23 uomini di equipaggio, fra i quali 7 italiani. Sono stati liberati al termine di un blitz delle forze speciali britanniche. Gli 11 pirati somali che ieri avevano abbordato il cargo italiano si sono invece arresi e sono stati arrestati. Gli ostaggi si erano asserragliati nella cosiddetta cittadella, un'area blindata inaccessibile ai pirati dalla quale avevano anche mantenuto il controllo della nave, ha spiegato il ministro della difesa La Russa. Questo ha consentito alla nave più vicina della missione internazionale capitanata da un ammiraglio italiano sulla Doria di intervenire. Sono intervenuti i marinai delle forze speciali inglesi, attraverso un elicottero si sono calati sulla nave e si sono immediatamente arresi i pirati e l'operazione si è felicemente conclusa senza nessun danno alle persone. Dopo ore di tensione hanno così potuto tirare un sospiro di sollievo i familiari dei nostri marittimi. Siamo sollevati, ha commentato anche il portavoce del gruppo D'Alesio, la società armatrice della Montecristo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora parliamo di telefonia. Prima era così. Adesso invece potrebbe essere così. Dopo anni di servizio, la suoneria della Nokia aveva bisogno di un aggiornamento. Così l'azienda di cellulari finlandese ha bandito un concorso e tra 2.800 partecipanti ha vinto un italiano. Valerio Alessandro Sizzi ha 22 anni e abita in provincia di Milano. $10.000 il premio e l'orgoglio di avere la propria creazione su migliaia di cellulari. Sentiamolo al microfono di Giacomo Segantini. Io mi sono diplomato quest'anno all'Istituto Europeo di Design con un corso di sound design e questa cosa comunque ha fatto tanto. Produco musica elettronica ormai da qualche anno e poi appunto metto dischi in un locale a Milano dall'anno scorso. Metto dischi a una serata che comunque è presente dal 1997 nella nightlife milanese, di conseguenza ho vari punti d'aggancio, diciamo, musicalmente parlando. Ti sei ispirato a qualche tipo di musica in particolare? Perché hai battuto concorrenti, c'era la versione a cappella, quella acustica? No, ho semplicemente realizzato un prodotto che potesse essere, diciamo, conforme a quello che era il brief, ovvero le regole di quelle che erano il contest. Nokia cercava qualcosa di fresco, qualcosa che comunque un po' stravolgesse il mood sonoro di Nokia, ed è per questo che evidentemente è stata un po' apprezzata. Io ho semplicemente provato a fare a dare la mia interpretazione. Ora l'editoria apre oggi a Francoforte la 63esima Fiera Internazionale del Libro, che ha come paese ospite l'Islanda. Sono 7.500 gli espositori da 111 diversi paesi, che fino a domenica occuperanno i 171.800 metri quadrati della Buchmesse tedesca. L'editoria del nostro paese verrà rappresentata da un punto Italia di 274 metri quadrati, con 1.400 titoli di 51 case. Ma qual è il riscontro degli autori italiani nell'editoria europea internazionale? Risponde Marco Polillo, presidente degli editori italiani. La considerazione è aumentata, le possibilità di traduzioni all'estero sono aumentate, effettivamente ci sono autori che vengono pubblicati in vari paesi del mondo, quindi c'è interesse ed è considerata un'editoria, come posso dire, di serie A. Ecco, diciamo che il rating dell'autore italiano all'estero è cresciuto rispetto al rating dell'Italia in generale, tenendo conto che è rimasta la difficoltà che c'è sempre stata, e cioè il fatto che la nostra è una lingua che viene conosciuta poco all'estero. Ed è tutto per questa nuova puntata di 24 ore in Europa. Una buona giornata da Paolo Panceri. 24 ore in Europa. In collaborazione con Euronet.